Una sorta di incubo, quello di Puma per questa apertura di seconda parte, di seconda ora, anzi per molti aspetti e per buona parte insomma del ragionamento che sta dietro a 451 frammenti sonori versus futuri rumori. Puma appunto che ha concluso con la prima parte e riaperto questa seconda ora con appunto questo disco che alterna, dicevo, momenti ontologici sicuramente, che appunto abbiamo sentito magari alla fine della prima ora, e momenti invece veramente da incubo sonoro come questa Mostar. Beh, in effetti il tema, le tematiche, anzi, non può che portare a una sorta di incubo musicale, ma con quella capacità, insomma, di Puma, questo moniker, insomma, abbastanza così assurdo, seppur è tutto puntato, P puntata, U puntata, M puntato, A puntata, quindi rimanda poi in mente vari acronimi che si possono formare, insomma, anche in maniera così tra il demenzial, horror, porno e situazioni anche estreme, anche con rimandi, perché no, non soltanto esteticamente forti, ma anche con invece un sostrato molto molto, se vogliamo, più sostanziale, meno estetico, estetizzante, seppure appunto in forma estrema, come appunto questa sorta di echeggiare, che è appunto una sorta di incubo sonoro che ci riporta appunto a Mostar. E da Blu, quindi, tra l'altro, insomma, dentro futuri rumori, con Placenta Records, un'etichetta di Detroit, suona un po' strano, una città generalmente è associata al suono del proto-punk di Stooges, MC5, oppure alla Motown, ovviamente, o alla techno di Detroit. Difficile, insomma, pensare a una Detroit invece legata all'arch noise, alla una sorta di industrial free e quant'altro, insomma, cacofonie varie possano e possiate, insomma, immaginare. Una, insomma, facendo, insomma, curiosa anche per appunto un approccio che, se vogliamo, per tanti aspetti già esisteva da potremmo dire anche da decenni proprio in Italia, quello di una via italiana, virgolettato, all'industrial music, già iniziata da Maurizio Bianchi addirittura alla fine degli anni 70, quindi agli arbori di quella che appunto è stata industrial music, ma forse ancora per certi versi, forse anche qua un effetto quasi ontologico, quello di Puma rispetto a quei suoni, o forse un fraintendimento mio, anche che può essere benevolo, rispetto invece a un recupero pieno, insomma, di appunto quelle atmosfere, seppure per quanto riguarda il suono mi porta, insomma, a pensare appunto che sia qualcosa di rimando, qualcosa legato più alla memoria. Memoria che per molti versi attraversa anche Massimo Magrini, Massimo Magrini, anche Bad Sector, che tra l'altro, insomma, probabilmente nel prossimo 451 frammenti sonori avremo. non andiamo a trovare appunto in un lavoro solista da qualche anno, insomma, produce a suo nome, nome storico che viene appunto da quello che potremmo considerare post-industrial, ovvero quelle forme che si sono succedute alla seconda ondata industrial, appunto se pensiamo già in Italia a Maurizio Bianchi, a Tausen Orchestra, che sono tra i primissimi, insomma stiamo parlando appunto di fine 70, primissimi 80, una seconda ondata con formazioni tal teatro, industrial, tra forme più elettroniche se vogliamo, ma anche con commistioni con electronic body music, insomma varie situazioni, da Pankow a forme di seconda industria vicino all'esoterismo, Sigillum Mess, e Bad Sector, quindi Massimo Magrini, invece parte in una terza ondata, se vogliamo, più legata magari a sperimentazioni soprattutto di tipo concreto ambientale, quindi anche per molti versi più rifacendosi alle avanguardie o alle neoavanguardie, per meglio dire, che hanno lavorato appunto sul suono concreto, ecco, dai francesi, Schaffer in testa, per poi andare appunto verso anche gli spettralisti, Ferrari, chi dronava, comunque vabbè, senza aprire insomma un discorso poi lungo che facciamo poi da un po' di tempo a questa parte, qua 451 frammenti sonori, andiamo a sentire questo Vraknas, uscito tra l'altro da pochissimo tempo appunto da parte di Massimo Magrini. Jersey Control. Control station. South Jersey Control. South Jersey Control. Oh, that's good. One 40. South Jersey. South Jersey. South Jersey Control. Jersey Control. Stay. Control. Station 14. Station 140. Jersey Control. Station. Jersey Control. Good. South Jersey Control. touch love. Com'è il suono ambientale, suono concreto in questo senso, quindi non il suono ambientale alla Ino, non il suono degli ambienti, ma il suono dell'ambiente concreto, del suono appunto concreto, perché appunto registrato in loco, lì in quel momento, utilizzato come materia anche narrativa, perché no, è anche molto bello questo Vraknas, pezzo unico di 40-45 minuti circa. Abbiamo sentito ovviamente una piccola parte, ecco, abbiamo estrapolato da questo un bel lavoro appunto uscito da pochissimo di Magrini, che appunto riprende un po', ritesse certe tele già ampiamente lavorate nel corso degli anni, nel corso degli anni 90, come Bad Sector. E poi appunto continuate con questo progetto, questo Dark Ambient, che è appunto di terza generazione industrial, se vogliamo, con appunto riferimenti, ma anche proprio una lavorazione piuttosto originale del suono, appunto concreto, di quello che anche in termini poetici, in questo senso una narrazione che, per quanto insomma può farsi astratta, tutta la musica per certi versi è astratta, forse non ci ragioniamo mai abbastanza su questa cosa, però di fatto certe musiche ci portano direttamente invece a pensare appunto all'astrazione musicale come dato, come qualcosa su cui si possa lavorare. Uno dei grandi che purtroppo ci ha lasciato, e che tra l'altro devo anche proprio ringraziare così proprio personalmente per intanto avermi come dire un pizzico, ma per colpa mia, non per sapere suo, educato alla musica d'avanguardia, soprattutto futuriste, ma non solo, insomma una grande capacità di trattare di scrivere. E poi tra l'altro appunto il ringraziamento non può che andare verso quei futuri rumori che è un piccolo pamphlet scritto da lui come rumori futuri, ho ribaltato semplicemente, ma insomma sì, il risultato magari per tanti aspetti è diverso. Andatevelo magari a cercare, insomma, un libro di poche pagine, ma che veramente illuminano su l'arte sonora futurista. E tra l'altro non ha scritto solo questo, forse in termini di futurismo, veramente di futurismo musicale è il più grande conoscitore, ed è soprattutto stato anche un grande compositore che riuscendo partendo insomma da quello che è stata l'avanguardia appunto futurista, tra l'altro con un senso dell'internazionalismo molto forte in termini appunto di futurismo e d'avanguardia, come insomma come la farina insomma di un sacco pieno insomma, che comunque appunto va anche, come dire, setacciato, ecco, questa probabilmente la farina veramente tra le farine migliori, quella di Daniele Lombardi, che potrebbero avere anche per molti aspetti direttamente o indirettamente anche così aver influenzato un tipo come Massimo Magrini, ascoltato poc'anzi. Lombardi, che già nel 69 faceva delle grafiche digitali, delle opere grafiche digitali ed audiovisive, era una sorta di conversione scultoria, se vogliamo, della scultura sonora, di quello che poi appunto è stato definito in questa maniera, come ha detto lui, notazione di fatti sonori che l'esecutore ricrea nella propria immaginazione, un po' questo poi l'idea generale che muove le ricerche, la sperimentazione di Daniele Lombardi, che ci ha lasciato appunto un anno e mezzo fa. E quindi anche un omaggio dovuto, come dire, da queste parti, a un grande appunto compositore, a un grande conoscitore, grande penna insomma legata al futurismo musicale, alle avanguardie in genere. Cercatevi assolutamente musica futurista, questo cofanettone. Non dico di cercarlo in vinile, l'operazione è veramente quasi quasi impossibile, a meno che non siate ricchi e molto pazienti, ma insomma un cofanetto in CD non è poi così impossibile da trovare, dove appunto c'è veramente tanto materiale. Avremo magari anche modo di riassaporare le musiche di Daniele Lombardi e anche appunto estrapolare altre composizioni legate al mondo futurista, che appunto trattato in musica futurista in questo mega maxi cofanetto appunto curato da Lombardi. L'immaginazione che corre dentro Metropolis, lavoro su Intona Rumori, e quindi di discendenza chiaramente insomma russoliana, futurista, con la capacità poi di rielaborazione attraverso il computer, questo Gorgoglio Remix fa per molti versi il verso appunto a Russolo lo omaggia decisamente e crea un mondo che potremmo, insomma, che potrebbe portarci anche dentro quello che poi era in nuce già nelle opere di Russolo, quello che diventerà il mixtape, potremmo dire, del suono della città, del suono della realtà che invade, entra dentro appunto i materiali sonori, solchi, tape, computer. In questo senso appunto c'è una sorta di futuribilità, ecco, quasi inesauribile del rielaborare materiali così esplodenti, ecco, e così esplosivi. Daniele Lombardi appunto da Metropolis con il suo Gorgoglio appunto remix. Thank you. Thank you. Lombardi con Gorgogliatore Mix, e poi abbiamo sentito per qualche minuto la lunga composizione della Città che sale, quindi il riferimento insomma più futurista di così non si può, ma tutta l'opera, tra l'altro Metropolis, è dedicata appunto al genio di Russolo, che appunto come spiega nelle note di copertina, tra l'altro scritte insomma in maniera assolutamente precisa, ma non soltanto analitica da appunto da compositore, da scrittore di musica, ma anche con quella capacità di saper giocare, e un gioco serissimo tra l'altro, con materiali che per tanti versi sono stati abbiurati per molti decenni, poi fin troppo incensati e celebrati così in maniera estetica. Invece proprio la grande capacità di Lombardi è stata sicuramente quella, anche se vogliamo proprio in un certo qual misura educativa, però in un senso veramente molto molto lato, di diffusione e di capacità appunto di elaborare, rielaborare e quindi far comprendere anche in termini di linguaggio sia scritto che musicale quello che appunto è stata la grande insomma arte dei rumori appunto del futuro futuribile, futurista Russolo. Lombardi, tra l'altro l'abbiamo sentito anche con appunto La città che sale per qualche minuto, poi opera insomma che c'è brano che va avanti per una trentina di minuti, che ha fatto anche un po' da pannello, da dipinto appunto astratto, concettuale, ma nell'idea appunto del concetto musicale e dell'immaginario, come d'altronde insomma si cerca di fare da queste parti, immaginarsi un suono appunto, in questo senso le avanguardie possono, malgrado insomma i tempi, possono ancora dire tanto, soprattutto insomma in termini perlomeno di sperimentazione, in quello c'è magari appunto il pannello utilizzato in questo caso da Max Macchia, un pannello musicale, dipinto musicale di appunto Lombardi non ha quel quadro così forte come l'ha avuto lui, visto che poi ha lavorato con Cnuce, quindi dentro quella anche che fu il grande laboratorio poi attraversato da menti assolutamente geniali come quelli creatrici della computer music, non soltanto italiana, come quello appunto di Pietro Grossi. Dentro quella che è una ricerca incessante, se vogliamo anche legata per molti versi all'avanguardia, anche all'avanguardia storica, non soltanto alla neoavanguardia, e poi è anche una grandissima conoscenza, oltre che una passione spropositata, lo so di certo, insomma, perché abbiamo scambiato qualche parola appunto con nomi che uscivano con una facilità incredibile. Sto parlando di Renato Grieco, in arte KNN, dentro Futuri Rumori, che andiamo tra poco a sentire con Queste cose non vennero mai, ma sono sempre, un titolo che può riportarci appunto anche dentro una sorta di gioco, se vogliamo, surreal, Dada Surreal, con tanto insomma di rimando ontologico, che sentiremo anche soprattutto in termini sonori, e in quella capacità appunto di KNN di riuscire a avere questa memoria che diventa anche a volte ombrata, con quel senso appunto di opacità, queste ombre che appunto diventano opache perché rimandano a dei tempi che non sono soltanto suoi, legati appunto a vecchi nastri recuperati, magari anche nastri casalinghi, vecchi tape, anche a questa indeterminatezza, se vogliamo, di un certo modo di intendere la tecnologia come strumento per liberare poi la fantasia. In questo senso, ecco, c'è in KNN, in termini progettuali, in termini fattuali, proprio questa capacità appunto di portare a termine questa operazione, questo dispiegarsi, ecco, potremmo dire, di un tecnologico che si fa appunto liberatorio, libera qualche cosa che sposta insomma le lancette dell'orologio, anche in termini insomma piuttosto appunto nebbiosa, potremmo dire, ma con quella nebbia appunto ontologica tra passato, futuro e futuri più o meno realizzati, futuri che prendono tanto dal passato quanto da appunto località e tempi appunto ameni. Ci andiamo appunto ad ascoltare con Vernacolaria e poi una parte anche di field recording trattati, narrati in tape 3 per qualche secondo. Io vi lascio appunto e vi rimando al prossimo 451 frammenti sonori, vi lascio in ottime mani anche per proprio manipolazione di nastri e vari marchingegni più o meno vintage, più o meno moderni, appunto in quelle di Renato Grieco e come KNN ovviamente, con queste cose non vennero mai, ma sono sempre, quindi ci siamo, direi, veramente avvennero sempre, come probabilmente no, non avverrà sempre 451, avverrà per ancora chissà quanto tempo, non lo so, e comunque vi rimando appunto alla prossima. Ciao da Max Macchia, e appunto fate fate i bravi, e con questa chiusura appunto di 451 frammenti sonori versus quello che appunto futuri rumori.